il capo politico femminista di Agape arriva quest'anno al suo 45esimo anno, si tiene nel centro ecumenico valdese di Agape, appunto, a Prali, in provincia di Torino, nella Val Germanassa. Il campo appunto è nato dalla volontà delle donne, delle pastore valdesi, parlare di trattare i temi del femminismo, dei diritti delle donne, in un clima politico appunto come quello degli anni 70, che era molto, molto vivace anche rispetto a questi temi. Il campo nasce proprio come campo femminista, come campo internazionale soprattutto, quindi Agape è un centro internazionale che accoglie sia volontari e volontarie che lavorano per la struttura, sia appunto le persone durante i campi da tutte le parti del mondo. Poi diciamo che il campo, che è un'esperienza tra le più longeve, se possiamo dire, del femminismo italiano, almeno come continuità appunto dell'esperienza, della durata, poi è cambiato nel corso degli anni, appunto seguendo un po' quella che è stata la storia del femminismo. Se si guardano i programmi, i titoli soprattutto dei campi che si sono succeduti nei vari anni, si vede appunto la variazione dei temi, ma appunto delle impostazioni politiche. Quindi si è passati a un femminismo più teologico, se possiamo dirlo, appunto delle donne valdesi, a quello che è stato il femminismo della differenza, a delle riflessioni che magari riguardavano più il corpo e il lavoro, appunto magari di una prima, no, riflessione femminista, a un allargamento che poi ha riguardato l'arte e molte, molte altre questioni. Negli ultimi anni il campo si è ancora modificato e da campo politico donne, che aveva cambiato nome, si era chiamato campo politico donne, è tornato ad essere campo politico femminista. Non è stata una scelta, diciamo, di cambiamento soltanto del nome, ma anche proprio di che cosa intendiamo per femminismo. Quindi il femminismo non è più quello che viene agito dal soggetto donna, ma appunto dalla soggettività femminista e transfemminista. Quindi il campo, che aveva una tradizione separatista in senso, possiamo dire, essenzialista, anche se magari alcune femministe non saranno d'accordo, comunque separatista per donne cis, negli ultimi 5 anni invece ha deciso di posizionarsi come campo transfemminista e quindi di accogliere appunto la partecipazione anche delle persone trans. Proprio su questo tema, tu dicevi, ripercorre anche, in qualche modo segue anche la storia dei femminismi e della loro evoluzione, anche per una questione proprio organizzativa, che ti chiederei di raccontarci un pochino. Certo. L'organizzazione del campo è svolta da un gruppo che si chiama La Staff. È un gruppo composto da un numero variabile di persone, diciamo fra le 5 e le 7, provenienti da città diverse, con appunto anche qui esperienze, età, background diversi, che durante tutto l'anno si incontra regolarmente per pensare alla tematica del campo e per organizzare in un certo senso le attività, per proporre appunto dei nomi di persone da invitare. E ovviamente questa cosa ha avuto un'evoluzione nel corso del tempo, non c'è un tempo limite, diciamo, per stare nella staff, ma diciamo che ciclicamente c'è chi esce e c'è chi entra, quindi questo chiaramente ha permesso cambiamento appunto all'interno delle modalità del campo femminista, proprio perché le soggettività, le persone che l'hanno attraversato, che l'hanno organizzato, che hanno riflettuto su come si pratica femminismo in tutti questi anni sono cambiate. Sì, ti facevo questa domanda anche perché ci porta un po' a quello che è il tema del campo di quest'anno, ti chiederei di raccontarci un po' anche questo. Quest'anno volevamo concentrarci appunto sulla questione di come praticare i femminismi. Intanto abbiamo utilizzato appunto la definizione di femminismi al plurale, perché come sappiamo non c'è un unico femminismo, o almeno noi non crediamo che esista, crediamo che ce ne possano essere appunto di tanti tipi e che tutti sono legittimi. Noi ci vorremmo interrogare quest'anno a partire, come dire, dalla realtà contemporanea che stiamo attraversando, su quali sono gli strumenti di lotta e di resistenza quotidiana che possiamo apprendere, condividere e appunto mettere in pratica nella nostra pratica femminista di tutti i giorni. Avremo come ospiti Pinar Selek, che ci parlerà di migrazione migrazioni, in particolare delle migrazioni femminili, perché abbiamo pensato che proprio in questo momento fosse importante avere una riflessione femminista su che cosa vogliono dire le migrazioni in questo momento. E avremo anche Marta Bernardini, che è una pastora valdese, che ci parlerà del ruolo della Chiesa valdese nell'accoglienza in questi anni. E poi parleremo di lavoro, perché appunto anche lì il femminismo ha detto tanto, insomma, sul lavoro di cura, sul lavoro salariato, e però crediamo che in questo momento di grande precarietà, di grande ristrutturazione, no, neoliberale del lavoro, sia necessaria una visione, una pratica femminista. Questi appunto sono degli interventi frontali. Poi in realtà dentro al campo ci sono i laboratori, avremo dei laboratori pomeridiani di vario tipo, faremo autodifesa femminista con Alessandra Chiricotta e Pentesilia, faremo il laboratorio delle vulve parlanti delle pupazzare, faremo il laboratorio per creare dei meme femministi, ma soprattutto avremo una giornata intera in cui discuteremo di pratiche, nel senso abbiamo cercato di rendere quanto più orizzontale la partecipazione al campo, quindi invece di avere soltanto delle persone che vengono a fare delle relazioni e ci parlano quindi dei temi specifici, avremo un giorno in cui ogni persona potrà portare una pratica femminista o delle pratiche femministe che mette in campo appunto quotidianamente nella sua vita e nella sua pratica politica. Va bene, direi a questo punto stiamo arrivando quasi alla fine di questa intervista, però visto che stavamo parlando appunto del tema di quest'anno e quindi delle pratiche femministe, ti chiederei un po' di raccontarci brevemente appunto anche che cosa rappresenta il campo come pratica femminista. Sì, il campo, possiamo definire il campo stesso una pratica femminista. Agape è un'esperienza, insomma, peculiare, un'esperienza appunto, come dicevo, molto longeva, molto bella, e che, come dire, che sta, no, un po' a metà fra una scuola estiva, un percorso più assemblerare, politico, di autogestione femminista, e la sua forza credo che sia proprio lì, cioè che sia nei corpi, appunto nelle pratiche che mettiamo insieme nel costruire Agape. Il fatto che per 7 giorni 60-70 femministe, transfemministe si ritrovino, vivano insieme in questo modo comunitario che il centro ecumenico di Agape permette di fare, stando insieme appunto dalla mattina alla sera a discutere di femminismi, a fare dei laboratori, a ascoltare delle relazioni, a mettere in pratica appunto, no, le idee e le pratiche del femminismo. Questa è una cosa potentissima ed è la cosa che fa innamorare diciamo tutte le persone che vengono ad Agape del campo e di questo tipo di pratica, che appunto è la pratica politica che noi come staff amiamo di più, e quindi appunto il lavoro comunitario, la riflessione collettiva sui temi che ci piacciono, quindi il femminismo.